e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Oggi saranno proprio le mamme, i papà a essere al centro della nostra trasmissione. Diventare genitori rappresenta un momento importante della vita. È probabilmente l'evento che produce cambiamenti più significativi sia a livello personale che nella relazione di coppia. Nuovi ruoli e responsabilità, nuove sfide con cui misurarsi possono trasformarsi in un carico difficile da gestire e slatentizzare fragilità e paura. Un problema che non è più solo vissuto dalle mamme, dalle neomamme, ma che interessa sempre più anche i papà. Si parla della sindrome della covata e quindi alle neocoppie, ai neogenitori all'ascolto, chiedo di intervenire per raccontarci come stanno vivendo questo momento bello, ma che in alcune situazioni può diventare anche un po' difficile della loro vita. 800 24 00 24, un'occasione naturalmente per parlare anche di quel disagio emotivo, di quella tristezza, di quella mancanza di voglia di fare, che può presentarsi anche in momenti apparentemente felici. Nella seconda parte della trasmissione, per la pagina di denari, continueremo a parlare della cura dei nostri bambini in relazione ai nostri impegni lavorativi. Sappiamo che ci sono tutta una serie di possibilità che la mamma e naturalmente anche il papà possono cogliere. In particolare ci concentreremo sul congedo parentale, quella che una volta chiamavamo maternità facoltativa, ovvero la possibilità di assentarsi dal lavoro entro il compimento degli 8 anni di un bambino o di una bambina per un certo numero di mesi con uno stipendio ridotto. Bene, attenzione perché ci sono delle novità. Intanto gli anni non sono più 8 ma 12 e poi la fruizione su base oraria di questo congedo, che fino a qualche settimana fa era stata introdotta solo in via sperimentale. Ora una circolare dell'INPS conferma questa possibilità e ci spiega la nuova procedura per farne richiesta. Quindi ne parleremo insieme ad un esperto nella seconda parte della trasmissione. 800 24 00 24 per i vostri interventi. I nostri centralini sono già a vostra disposizione. Ma cos'ha la mia faccia che tutti mi chiedono perché sono triste? Viene vissuta come una colpa, una vergogna da tenere nascosta, si pensa che sia causata da debolezza di carattere, da rapporti sbagliati, ci si sente inadeguati e quindi ci si nasconde, si ha paura di chiedere aiuto. Ma noi oggi invece un aiuto ce l'abbiamo. Saluto e ringrazio il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda e a Miami. Buongiorno professor Perna, bentornato. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo qua oggi per affrontare un tema. Noi partiamo dai genitori, dai neogenitori, parliamo di quella che viene chiamata anche sindrome della covata, che è un po' il corrispettivo maschile di quella che è definita come depressione postpartum. Cerchiamo di definirla bene perché si fa troppo, con troppa semplicità si appiccicano delle etichette, ma questa, professor Perna, è anche un'occasione. Ieri c'è stata la giornata mondiale della salute mentale, di dare l'opportunità ai nostri ascoltatori per chiamarci e confrontarsi con noi per raccontare anche il loro disagio emotivo. A volte si presenta in momenti apparentemente felici, per questo ci fa sentire ancora di più in colpa e inadeguati. Allora è giusto fare chiarezza, perché la fase del postpartum, ma anche la fase della gravidanza, sono fasi molto delicate non solo per la donna ma anche per l'uomo. La famosa sindrome della covata, ti dirò che io ho dato un'occhiata in giro perché non ero, come dire, pienamente consapevole riguardo questa sindrome. In realtà si parla della sindrome della covata quando si parla della reazione del marito anche durante la gravidanza. Sì. I famosi mariti che... È stata coniata da un suo collega inglese, vero professor Perna? Sì, infatti nasce tra l'altro dalle tradizioni di popolazioni antiche, no? In cui di fatto il marito, appena la moglie partoriva, faceva tutto quello che faceva la moglie, no? Quindi si occupava del bambino, godeva delle cure, ma riceveva anche le attenzioni e i regali che nel mondo attuale è la donna che riceve di più. Quindi sicuramente la tendenza a immedesimarsi e vivere la gravidanza, talune volte addirittura mimando i mal di pancia, mimando i sintomi che ha la moglie che sta per partorire o che è in gravidanza, è comune. Quello che invece è vero è che alcune persone in più hanno il rischio di avere una sindrome successiva che è una sindrome simil postpartum, proprio perché quando arriva un bimbo la vita viene totalmente stravolta, vengono messi a rischio i rapporti, perché ovviamente non c'è più quel rapporto diretto partner, marito, moglie, che poteva esserci un tempo, in cui in realtà arriva una persona nuova, una persona che rende il legame davvero indissolubile, per quel momento in cui il legame non cambia, e quindi c'è un confronto. Questo confronto, il bambino piccolo soprattutto, crea una serie di disagi nella donna da una parte, ma forse lei è aiutata dal sintomo materno, molto nel papà, che a quel punto lì non sa che pesci pigliare spesso. 800 24 00 24, prenotate i vostri interventi, e al 349 238 6666 come sempre potete mandarci i vostri messaggi, ma seguirci anche sulle pagine dei nostri social. Professor Perna, quali sono le neomamme e neopapà che rischiano di più? Ci sono delle condizioni favorenti, dei sintomi anticipatori, dei segnali soprattutto da non trascurare? Beh, innanzitutto è chiaro che se io ho già avuto un disturbo d'ansia o un disturbo depressivo precedente, tende a essere un po' più a rischio, che non vuol dire che sia un destino, mettiamo in chiaro questo. Tante mamme mi chiedono, no, se avranno dei problemi, la risposta è no, nella mia esperienza clinica non è assolutamente un destino avere la depressione postpartum se hai avuto un disturbo d'ansia o depressivo, però è un fattore. È un po' di stanchezza fisiologica, sì, quindi è sì, un po'. Guardi che il 50-80% delle donne hanno quello che si chiama il postpartum blues, sì. Vuol dire che hanno ansia, sintomi d'ansia, di tristezza, irritabilità, di problemi all'appetito, al sonno, che sono assolutamente condizioni che nel giro di 2-3 settimane massimo tendono a scomparire, quindi ecco. Non bisogna terrorizzarsi. Bravo. Appena c'è un cambiamento, perché non questa trasmissione vuole essere proprio un'occasione per fare informazione, quindi sì. Evitare di mettere etichette così per sentito dire. Siamo partiti dai genitori, anche perché nella seconda parte della trasmissione, come anticipato, parleremo di congedo parentale, quindi volevamo dare questo pacchetto ai genitori all'ascolto, ma naturalmente, come abbiamo anticipato, questa è un'occasione proprio di confronto, quindi non necessariamente dovete chiamare solo se vi sentite descritti nel profilo del genitore. Ci sono no. Dei cambiamenti emotivi, degli stati di malessere che possono presentarsi nel corso della nostra vita. Dobbiamo imparare a guardarci e a guardarli, e con tutte le informazioni necessarie per cercare di affrontarli nel modo migliore. Sicuramente in alcuni casi potrà essere utile il ricorso ad un esperto per parlarne, in altri casi magari è una situazione temporanea che nel giro di poche settimane, quasi fisiologica, si risolve. Quindi la puntata di oggi vuole proprio dare questo taglio, questa informazione a chi ci sta ascoltando. Professor Perne, d'accordo? Io sono totalmente d'accordo, nel senso che dobbiamo ricordarci due cose. Primo, che l'evento della nascita di un bimbo è un vero cambiamento fondamentale nella vita di chiunque, quindi è chiaro che induce degli squilibri, però l'altra cosa importante è che il nostro cervello, il nostro corpo, la nostra persona hanno una potenza di risposta ai cambiamenti straordinaria. Pensiamo addirittura, e stavo proprio leggendo, che il cervello della donna, della mamma, e il cervello del papà, del neomamma e neopapà, cambiano, cioè strutturalmente cambiano. Quindi vuol dire che alcune zone del cervello si potenziano, altre zone si depotenziano durante la gravidanza e nel postpartum. Quindi è proprio il cervello che si prepara ad affrontare questo grosso cambiamento. Quindi bisogna avere fiducia nelle capacità di reazione di noi come individui. L'altra cosa importante, è chiaro che un ambiente familiare, relazionale, equilibrato, coerente, la presenza di un supporto sociale adeguato sono un altro elemento cruciale. Una volta che abbiamo questo, qualsiasi difficoltà iniziale tende comunque a essere poi minimizzata e a essere superata. Purtroppo in alcuni casi, e parliamo non di una donna su un milione, ma possiamo arrivare a parlare anche di un 10-20% delle donne, la tendenza ad avere qualcosa di un po' più intenso, che si trascini un po' più a lungo, esiste. In quel caso però andiamo incontro a una forma di depressione reale che ha bisogno poi di avere un supporto e un aiuto. Però la maggior parte dei casi, ricordiamoci, sono risposte adattative normali che si superano. 800 24 00 24, il nostro numero verde è già attivo, non solo per le neomamme e neopapà, naturalmente ne parleremo col professor Perna. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo subito dopo insieme, vi aspetto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta e denari. E vado su, su, su, e vado giù, giù, giù, e vado su. A volte è il nostro umore ad andare su e giù. Oggi vogliamo parlare di tutti quei momenti della vita in cui inspiegabilmente, quando tutto all'apparenza fila liscio, sembra funzionare bene, abbiamo dovuto confrontarci con un malessere caratterizzato da tristezza, ma anche da mancanza di voglia di fare, da sfiducia e insicurezza, senza dimenticare i disturbi del sonno. Quindi vi invito a chiamarci, perché oggi ci occuperemo dei neogenitori, ma l'invito è aperto a tutti coloro che vogliono raccontarci la loro esperienza con uno stato di malessere psicofisico. Ci aiuta il professor Perna. Professore, la depressione può essere slatentizzata da tanti fattori: le preoccupazioni per il lavoro, per la salute di un familiare, per il lutto. Spesso la associamo solo alla tristezza, al cambiamento di umore, ma ci sono degli altri segnali da tenere in considerazione che possono aiutare a inquadrare bene il problema. Cioè, non basta un umore altalenante. Corretta, hai proprio ragione. Oggi si abusa della parola depressione, quindi qualsiasi cosa sei depresso. In realtà bisogna stare molto attenti, perché da una parte esistono molte forme di depressione, inteso come insieme dei sintomi che mimano la depressione, tipo l'abbattimento dell'umore, la disperazione, la tristezza e compagnia, che però sono delle risposte psicologiche di fronte a problemi. È chiaro che se io ho un lutto importante, ho perso il lavoro, mi è successo qualcosa di pesante, è inevitabile, certo, che abbia una risposta emotiva che diventa una sorta di demoralizzazione e tristezza, oppure se è un problema che dura da molto tempo. Altra cosa è parlare della malattia depressiva. In quel caso lì parliamo di una condizione che non ha una sua plausibilità nella vita della persona e che ha caratteristiche ben precise. L'umore non è così centrale, ci sono altri fattori più importanti, per esempio la incapacità a provare piacere, la perdita della volontà e, terzo fattore importante, quello dell'alterazione dei ritmi circadiani, cioè la persona che ha una depressione clinica, quindi una malattia depressiva vera e propria, tende a stare molto peggio la mattina risveglio e recuperare la sera, per poi ricominciare questo ciclo durante la giornata. Altre cose molto importanti sono il fatto che il ritmo del sonno tende in qualche maniera a saltare e in generale un crollo delle energie psicofisiche. Però ricordiamoci, la perdita della volontà da una parte e la incapacità a provare piacere dall'altra sono forse i due elementi più centrali, insieme all'alterazione del ritmo. E quindi se dovesse fare lei, professor Perna, una convocazione ai nostri ascoltatori, cosa che regolarmente io e Deborah facciamo proprio per attivare un po' il confronto e anche le telefonate, perché dalle storie che arrivano a Cuore Denari c'è sempre da imparare, professor Perna, a chi si rivolgerebbe? Ma io mi rivolgerei al fatto che tutti noi abbiamo esperienze di vita difficili che ci buttano giù, quindi cerchiamo di capire fino a dove arriva una sana tristezza, una sana demoralizzazione, che è un'emozione normale della vita, e da dove parte invece una condizione patologica che non ci sta. Perché è fondamentale? Perché non bisogna curare chi è triste e demoralizzato, ma non bisogna trascurare chi invece ha una malattia vera e propria. Quindi certo, oggi questo è, ti assicuro che questo è fondamentale, perché tanti studi che hanno in qualche maniera, per esempio, squalificato l'uso dei farmaci, sono anche legati al fatto che il concetto di depressione non è così chiaro nelle persone. Quindi se sbagliamo mira, sbagliamo anche il risultato. Oggi la depressione, professor Perna, nei casi severi viene affrontata con trattamenti farmacologici, certo, che vengono però sempre affiancati da una psicoterapia, ma oggi ci sono altri approcci che danno risultati altrettanto interessanti, ad esempio il trattamento con la luce, ne parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione, e parleremo anche di alimenti che possono avere un effetto sul tono dell'umore, ma anche un'azione lievemente antidepressiva. La ricerca è molto attiva su questo fronte, noi avremo il piacere di avere in linea uno dei massimi esperti in materia, la professoressa Silvana Creglia, biochimica che insegna biochimica alla nutrizione di Bologna ed è autrice di un libro di cui vi ho parlato quest'estate ad agosto, Nutrire il cervello, come proteggerlo con i suggerimenti della nutraceutica. Quindi non sono leggende, non sono le leggende della nonna, sono dati che arrivano proprio dalla ricerca e ci aiutano anche a mantenere, no, la salute del nostro cervello e anche del nostro umore grazie all'apporto di specifici nutrienti. Andiamo ai nostri ascoltatori. Abbiamo Betty che ci chiama da Bologna e poi Daniele da Roma. Benvenuta Betty. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica, buongiorno. Betty. Ma io volevo portare un attimo la mia breve esperienza, perché adesso io ho un bimbo in realtà grande, perché ha già 8 anni, quindi praticamente un giovane uomo. Sì, esatto. Il periodo critico c'è stato ed è passato. e per, diciamo, portare la mia esperienza alle mamme invece neomamme di oggi, io devo dire che anzi avere un figlio secondo me fa perdere un po' quell'egoismo che si ha quando si è single e quando insomma si fa la vita pensando solo a se stessi. È vero, è una straordinaria palestra d'amore. Infatti è meraviglioso questo e dico ripaga di tutte le fatiche che si fanno, soprattutto dei primi giorni, perché io devo dire il primo mese forse è proprio il più critico, dopo tutto va un po' sciamando, insomma. Bisogna prendere il passo. Esatto. E la cosa invece che chiedevo più tecnica era se, avendo adesso proprio un bambino di 8 anni, se questo congedo parentale con questa nuova regole normative... Che vengano appunto allargate fino ai 12 anni, esatto. Quindi... se Betty... ne hanno diritto solo le neomamme o se c'è la possibilità anche per chi ha bambini e più certo. grandi. Betty, lei mi ha fatto un lancio straordinario per la pagina di Denari e quindi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci, perché ci confronteremo proprio con questo tema, con il nostro esperto pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Riguarda solamente le neomamme o anche le mamme come Betty, che sono sempre neo, però hanno già un bambino di 8 anni. Grazie Betty, continui a ascoltare la trasmissione, ci raggiungerà il nostro esperto. Intanto andiamo a Daniele, che ci chiama da Roma. Buongiorno Daniele. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo, noi abbiamo avuto una situazione un po' particolare, quindi un parto trigemellare. Diciamo, dopo il parto mia moglie non ha, diciamo, mostrato segni di depressione, che però, diciamo, è diventata per ovvi motivi iperattiva. Sì. Quindi non so se poi, insomma, questa cosa è un bene o un male, se prenderla come una... Certo, allora sicuramente Daniele, con tre gemelle le cose da fare sono tante, per cui immagino che sua moglie non stia seduta un attimo, ma questa iperattività a cui lei fa riferimento sicuramente il professor Perna può inquadrarla in base alla sua esperienza. Professor Perna, quando l'iperattività di una persona diventa un po' un segnale di malessere? Ma innanzitutto quando gli altri hanno la sensazione che la situazione sia esagerata, cioè è chiaro che con tre gemelli bisogna correre, sì. Questo voglio dire ci sta, è chiaro che dipende se io per esempio divento troppo euforico, non dormo mai di notte, sono pieno di energie, in qualche maniera ho dei comportamenti che sono comportamenti strani o eccessivi, allora uno a quel punto lì perlomeno una chiacchieratina con uno specialista va fatta, no? Qui la misura davvero sono gli altri, ricordiamoci che ognuno di noi ha dei livelli di energia variabili, quindi se io sono una persona che tendenzialmente sono molto poltrone lenta, magari uno che corre più veloce lo vedo come un eccessivo, viceversa se io sono uno che corre sempre potrei vedere uno come fosse depresso, invece uno semplicemente tranquillo, però è molto importante avere dei fatti oggettivi, quindi qualcuno si è lamentato del suo comportamento? Ha manifestato dei comportamenti che ha messo in difficoltà la famiglia? Sono queste le domande da farsi, quindi cose concrete. Se invece è una, tra virgolette, povera, ma nel senso buono del termine, è una fortunata mamma che deve correre perché ha tre creature nate e quindi tira fuori tutte le sue energie, soprattutto nella fase iniziale, beh, quello potrebbe essere già più normale. 800 24 00 24, continuate ad intervenire, parliamo del nostro disagio psicofisico, perché professor Perna, la depressione ha anche dei lati fisici, dei sintomi fisici di cui parleremo subito dopo il nostro GR, intanto vi aspetto, GR e poi Cuore Denari. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. E sì, c'è molto da fare, ci sono tante cose da fare, lo sappiamo, spesso le nostre vite sono piene e anche un po' frenetiche, poi quando arriva un figlio cambiano le priorità e nasce anche l'esigenza di ripensare i tempi del lavoro, per la mamma naturalmente, ma anche per il papà. Ne parliamo oggi nella pagina di Denari, capiremo insieme come funziona lo strumento del congedo parentale su base oraria, che è stato da poco reso permanente dall'INPS. 800 24 00 24, se siete genitori e state prendendo in considerazione questa possibilità, di cui, lo ricordo, si può fruire fino al compimento dei 12 anni del bambino o della bambina. E riprendiamo il tema della pagina di Cuore, che è in parte legato a quello di Denari, perché parliamo dei genitori. Nella prima parte della trasmissione abbiamo voluto, insieme al nostro esperto che saluto, il professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese Concassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda e Miami, abbiamo cercato un po' di definire, di fare un distinguo tra quel malessere, quella tristezza, quella stanchezza che è un po' fisiologica, quindi può colpire anche le neomamme, anche i neopapà, da quella che invece può essere considerata come un segnale di qualche cosa di più serio, della depressione. Il professor Perna ha sottolineato, professore, che non è l'unica segnale da tenere in considerazione quello della tristezza e dell'umore nero, ma ce ne sono altri da mettere un po' sul piatto della bilancia, altri segnali che possono comparire anche nel corso della nostra vita. Proprio ieri è stata la giornata mondiale per la salute mentale, una giornata attraverso cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio intende sensibilizzare sui diritti, le cure, l'integrazione delle persone con disagi psichici. Professor Perna, allora, dato che oggi noi volevamo proprio cercare di dare tutte le informazioni possibili per evitare pericolose etichette, vorrei anche che lei ci aiutasse a leggere meglio queste due frasi che spesso noi diciamo: sono depresso quando siamo tristi, al mattino facciamo fatica ad alzarci, non abbiamo tanta voglia di fare, vediamo, no, sempre un pochino tutto grigio. Diciamo invece ho l'ansia quando siamo in eccitamento continuo, abbiamo dei pensieri anche un po' ossessivi, non riusciamo a staccare dalle cose, quindi problemi del lavoro che ci tormentano, che ce li portiamo a casa, una sorta di frenesia, quasi fossero due facce della stessa medaglia, una iperattiva e l'altra poco attiva. Professor Perna, mettiamo anche qui qualche puntino, no, sulle di precisazione, perché naturalmente poi, dato che sempre di più si parla anche di questi problemi che interessano la mente, sottolineate quanto sia importante anche valutare i segnali che il corpo ci manda, naturalmente vorremmo anche approfittare dell'occasione per parlare di un problema che preoccupa molto e spaventa, che è uno dei disturbi d'ansia più frequenti, che è il disturbo l'attacco di panico. Professor Perna. Allora, hai detto una cosa assolutamente reale, cioè, il corpo gioca una partita enorme in questi disturbi di tipo mentale. Sappiamo per esempio che quando io sono depresso tendo ad avere un calo di energie, sessualmente delle difficoltà, mi viene l'insonnia, mi stanco facilmente, quindi mi cala l'appetito, quindi sono tutta una serie di sintomatologie di tipo fisico. L'altro lato della medaglia invece sono proprio disturbi d'ansia in cui il corpo non parla, urla. Il corpo urla ed è un corpo che può far sentire addirittura sensazioni simili infarto, per cui il cuore mi batte talmente forte che ho paura di morire di infarto, piuttosto che mi manca il respiro e ho paura di soffocare, o mi viene la tendenza ad avere una dissenteria molto violenta o un capogiro per cui ho paura di svenire. Quindi il corpo è l'elemento centrale attraverso cui la mente parla. Questo è importante sottolinearlo. Bisogna anche dire un'altra cosa, riprendendo proprio l'inizio di quello che hai detto. Sono depresso è una frase comune, ma non indica una patologia, o l'ansia idem. Cioè ricordiamoci che la depressione, l'ansia, la paura sono delle emozioni normali dell'essere umano. Ti vorrei far notare una cosa particolare, che è questa: le emozioni primarie sono sei: tristezza, gioia, disgusto, paura e sorpresa. Okay. Sì. E questo tipo di la maggior parte di queste emozioni sono negative. Quindi quando il cervello deve difendersi dal mondo esterno, deve sopravvivere, mette in atto automaticamente una patina negativa. Pensate bene che sulle sei emozioni che ho descritto, solo una è positiva, la gioia. Poi avete tristezza, avete paura, avete disgusto e avete rabbia, che sono quattro emozioni negative. Quindi non abbiamo paura delle emozioni negative, che fanno parte del nostro bagaglio di difesa. Certo, quando diventano non coerenti con la motivazione. Cioè se mi arrabbio sempre per un non nulla, se mi viene un attacco di paura immotivato, se sono terrorizzato da un barboncino, allora siamo in una condizione patologica. La stessa cosa vale soprattutto per la tristezza. Se io sono triste perché ho una motivazione chiara e coerente con la mia tristezza, non è una depressione clinica, è una tristezza. Se invece non c'è coerenza, quindi la mia risposta è esagerata o immotivata, allora siamo in un dominio di tipo patologico. Quindi ricordiamoci bene, non tutti i depressi, come diciamo noi nella nostra vita quotidiana, hanno una malattia depressiva, non tutti gli ansiosi hanno un disturbo d'ansia. 800 24 0024, se volete dare una spiegazione ad un segnale che, con cui vi confrontate a livello fisico, a livello psichico, possiamo mettere anche il tremore, professor Perna? Sì, sì, sì. Un tremore esagerato di fronte ad una situazione che ci fa paura? Beh, e che si associa ad altri segnali come la mancanza d'aria, sì, il cuore che batte all'impazzata, una sudorazione. Vero, vero. Nicoletta, il tremore si dice tremare dalla paura, lo dicono le nostre nonne, lo dicono tutti quanti, per cui il tremore è uno dei segnali di un'emozione forte negativa, non necessariamente una patologia, ma è chiaro che se poi ci porta per esempio a evitare gli altri per paura di far brutta figura o non ci aiuta a scrivere, a firmare, allora diventa qualcosa di più serio. Nell'attesa delle storie dei nostri ascoltatori, professor Perna, l'abbiamo anticipato, spesso una delle ragioni per cui questi disagi vengono nascosti, taciuti o mascherati, è proprio la paura di recarsi da uno specialista e di dover affrontare una terapia farmacologica. Adesso per fortuna ci sono anche altre alternative ai farmaci. Il farmaco viene prescritto dallo specialista in abbinamento con un percorso di psicoterapia, ma ci sono altre chance per la persona a cui viene fatta una diagnosi. Una tra queste è il trattamento con la luce. Ci racconta di che cosa si tratta? Beh, questa è una cosa preziosissima. La luce è responsabile dei ritmi circadiani di ognuno di noi, no? E quello che si è visto, che se viene somministrata in certi dosaggi in alcune ore della giornata, no, può avere un effetto antidepressivo. Esistono delle lampade speciali, che non sono le lampadine ovviamente di casa, sono lampade speciali. Sì, non è la nostra bajour. No. E neanche quella da cui si va per farsi la tintarella, dove non ci dovrebbe andare peraltro, comunque. Sono cose specialistiche, hanno una potenza cosiddetta di 10.000 lux e simulano la luce del sole. Quindi alla mattina, anche lì, no, il fai da te funziona fino a un certo punto, perché bisogna fare dei test apposta che definiscono che tipo, chiamiamo così, solare noi siamo, il cronotipo si chiama così. Sì. E lì ci possono andare esattamente quando dobbiamo esporsi alla luce, per quanto tempo, generalmente sui 30 minuti, però può essere variabile, no? E proprio ci dà, come fosse una terapia farmacologica, una psicoterapia, i tempi, i modi, no? I dosaggi. Qual è il vantaggio? Che non ha effetti collaterali, ovviamente non può essere fatto il fai da te, ma è sicuramente, facciamo un esempio, in gravidanza è un qualche cosa che noi potremmo utilizzare molto bene, ovviamente. Certo. Che cosa fa la luce? La luce, man mano che scende la luce, aumenta la melatonina e aumenta la voglia di dormire. In qualche maniera la luce riequilibra il ritmo biologico, il ritmo circadiano di ognuno di noi. Abbiamo visto che uno dei fattori centrali della depressione è l'alterazione dei ritmi circadiani. Talvolta si fa qualcosa di più, si associa alla terapia della luce anche delle specie di, adesso la chiamano terapia della veglia, no? In sostanza i pazienti dormono ogni 48 ore, ogni 36 ore, poi dipende dal protocollo, alternando notti di recupero di sonno profondo, e sembra che l'alternarsi a notti di recupero di sonno profondo e notti in cui sta sveglio possa in qualche maniera avere un effetto positivo. Ripeto, non il fai da te, quindi bisogna dare non il fai da te, ma no, professor no. Perna, sottolineiamo come quando il disturbo del sonno, che può essere, no, causato da tanti motivi, certo, è invece un segnale di un disagio più profondo. Che caratteristiche ha l'insonnia della persona ansiosa e l'insonnia della persona depressa? Sono diverse, nel senso che l'insonnia della persona depressa è soprattutto legata a un'insonnia nel risveglio, no? Quindi la persona sostanzialmente magari si addormenta bene, per poi si sveglia molto precocemente e quando si sveglia è veramente KO, questo sì, è il più tipico della depressione. Nell'ansiosa invece la fatica nell'addormentarsi, perché la mente viene invasa dai pensieri, quindi uno rimugina eccetera eccetera, quindi fa fatica addormentarsi o si sveglia durante la notte. Quindi questi sono, se vogliamo, degli spartiacque. La cosa vera è che il sonno è preziosissimo per mantenere l'equilibrio psicofisico ottimale. Abbiamo visto che il sonno è cruciale per esempio nell'apprendimento, nella memoria, e nella depressione gioca un ruolo assolutamente centrale, tant'è che esistono queste cure non farmacologiche alternative di grande efficacia, in Italia ci sono centri rinomati al riguardo e quindi si possono trovare delle buone soluzioni. Insomma, come dicevano le nostre nonne, il sonno è nutrimento, nutre la nostra salute psicofisica. E a proposito di nutrimento, voglio dare subito il benvenuto alla professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna. Professoressa Creglia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Autrice del libro Nutrire il cervello, come proteggerlo coi suggerimenti della nutraceutica. Professoressa, buongiorno. Di questo libro ne abbiamo parlato anche quest'estate, agli ascoltatori è piaciuto molto. Tra l'altro ricordo che tutti i proventi del libro sono stati devoluti alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna. E professoressa Creglia, noi chiudiamo questa prima parte di Cuore Denari insieme a lei, naturalmente il professor Perna che è ancora in linea con noi, ci sediamo a tavola, perché nel suo libro racconta i dati di numerose ricerche che dimostrano che ci sono degli alimenti molto interessanti per il nostro cervello. Iniziamo da quelli che aiutano a mantenere un buon tono dell'umore, soprattutto in questo periodo dell'anno. Conoscerli ci aiuta, perché stiamo entrando in un periodo dell'anno in cui progressivamente avremo sempre meno luce, e il professor Perna ha sottolineato l'effetto positivo della luce sul nostro umore. Allora, la luce gradatamente se ne va, ma noi a tavola che cosa facciamo arrivare? Noi facciamo arrivare qualche cosa che ci aiuti non solo a nutrire il cervello, ma a combattere anche la depressione, perché la depressione si può e si deve combattere anche a tavola. E quale miglior antidepressivo che un cubetto, un pezzettino di cioccolato fondente? Gli studi dimostrano che il cioccolato fondente può migliorare l'umore, in quanto è in grado di aumentare il livello di serotonina nel cervello, stimola il rilascio di endorfine, che sono delle sostanze responsabili proprio dei sentimenti di euforia o di felicità. Pertanto, con un boccone di cioccolato, mi raccomando, fondente, quindi cacao amaro, noi possiamo aiutare a combattere la depressione. Ma se il cioccolato chiaramente può essere definito un alimento antidepressivo per definizione, forse molti non sanno che noi possiamo utilizzare moltissimi altri alimenti per combattere questo stato, e prima di tutto sfruttare gli acidi grassi omega 3, per esempio presenti nel pesce, soprattutto nel pesce azzurro. Quindi acciughe, sgombri. Esattamente. Costano poco. Ne basta un consumo relativamente limitato, perché in 100 grammi di aringhe, di acciughe o di sgombro ci sono più di 2 grammi di omega 3, quindi una quantità ben superiore a quelli che sono i valori di riferimento delle linee guida per una corretta nutrizione. Gli omega 3 perché sono importanti e perché ci aiutano? Perché gli omega 3 sono dei veri e propri nutrienti, o meglio nutraceutici plastici del nostro cervello. E più di un lavoro pubblicato su riviste internazionali ha dimostrato che l'utilizzo di questi omega 3 in soggetti con depressione severa, addirittura resistenti ad antidepressivi, ha dato dei buoni risultati. È chiaro che gli omega 3 non possono e non devono vicariare i farmaci quando c'è una diagnosi di depressione. Però una dieta equilibrata che contenga la giusta dose di omega 3, ripeto, 100 grammi al giorno due volte alla settimana, quindi una cosa del tutto fattibile, può sinceramente aiutare lo stato e migliorare il nostro benessere. Un altro piccolo aiuto, siamo in stagione, è la frutta secca. La frutta secca, le noci, le nocciole, le mandorle, mangiata con moderazione ovviamente perché ad alta densità calorica, è ricchissima di antiossidanti e ricchissima di precursori degli omega 3 a lunga catena, e inoltre contengono notevoli quantità di magnesio, come il cioccolato, che è una sostanza necessaria per incrementare la produzione di questa famosa serotonina, che è il neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione dell'umore. Quindi ci aiuta a tenere lontani anche i disturbi del sonno, più in generale l'irritabilità, e a migliorare la nostra condizione di benessere. Grazie professoressa Creglia, volevo commentare queste notizie che sono ghiotte perché ci permettono di portare a tavola delle cose buone e fare bene anche alla nostra salute e al nostro benessere col professor Perna. Come dico sempre io, il lato edonistico e il lato salutistico non sono necessariamente in contrapposizione. È vero professoressa Creglia. Professor Perna, che ne pensa? È vero, quello che ha detto sono dei fatti concreti. Se volete vi aggiungo una cosa personale che ho studiato, perché poi se la dottoressa in linea ha un parere interessante, il curry, no? Sì. Sembrerebbe che il curry, io personalmente ho una passione per il pollo al curry, abbia delle proprietà anche sull'umore, no? E lo stanno studiando abbastanza, anche perché alcune popolazioni di persone praticamente longeve, soprattutto orientali, la tendenza a usare alcune spezie è importante. Direi che concordo anche su un altro punto, che questo, cioè non pensiamo solo con il buon pasto, il buon alimento, il buon, come dire, integratore, di risolvere una depressione clinica importante. Quando è importante ci deve essere, quando è immotivato ci deve essere sempre intervento specialista, anche perché parliamo di una condizione che colpisce molte persone e purtroppo può avere conseguenze anche molto pesanti. E purtroppo i numeri sono in aumento. Andiamo ad Anna da Varese, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico e poi per occuparci di congedo parentale. Anna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo chiedere al professore, mio marito ha avuto un infarto 2 anni fa, ha 80 anni. Dopo di allora ha avuto una depressione, nel senso che ha perso 10 kg, non mangia più, non ha più interesse, ha sempre pensieri negativi e praticamente passa i pomeriggi sul divano, mentre prima era un uomo attivo. Molto attiva, e immagino Anna, anche, sento anche dalla sua voce, immagino professor Perna, professor Creglia, anche la preoccupazione della persona che vive accanto ad una persona depressa, che questa malattia ha praticamente sostituito con un'altra, spesso non sappiamo come intervenire, come aiutarla. Sicuramente una malattia, e l'infarto è una di queste, lascia un segno molto profondo nella psiche della persona che ne è stata affetta. Professor Perna. Sì, l'infarto o qualunque problema di tipo cardiologico è associato sia ai disturbi d'ansia che depressivi, quindi questo è un qualche cosa di molto importante. Ovviamente per la signora l'input è: bisogna riferirsi a uno specialista. Quella è una condizione in cui non è una semplice reazione psicologica a un problema grave, ma comunque risolvibile, diventa qualcosa di più. Quindi oggi la scienza è andata avanti, ci sono tante soluzioni farmacologiche. Ecco, non aspettiamo, noi abbiamo iniziato questa puntata dicendo non mettiamo etichette, non è sempre solo depresso, l'ansia eccetera, però non aspettiamo troppo tempo, cerchiamo di farci aiutare. Noi naturalmente siamo a vostra disposizione, cuoredenari@radio24.it, chiediamo a chi non è riuscito ad intervenire in trasmissione di scriverci. Noi naturalmente mettiamo a disposizione i nostri esperti, che io voglio salutare e ringraziare. Professoressa Creglia, grazie per essere stata con noi. Grazie al professor Perna. Buongiorno a tutti, buona giornata. Grazie, alla buona prossima. Giornata. Noi andiamo a sentire la borsa e poi subito dopo ci occupiamo del congedo parentale. Tutti i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre esperienze, siamo qui. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. È per te ogni cosa che c'è. Buona notizia per le neomamme e i neopapà. Ormai è certo, la fruizione del congedo parentale su base oraria, introdotta in via sperimentale fino al dicembre 2015, è stata resa permanente. E l'INPS ha divulgato proprio da qualche settimana una circolare in cui spiega la nuova procedura per richiederlo. Allora, 800 24 00 24, in quest'ultima parte di Cuore Denari ci rivolgiamo a tutte quelle famiglie in cui l'arrivo di un bambino o di una bambina cambia le priorità e le esigenze, anche il modo di organizzare il tempo del lavoro per la mamma e per il papà. Ecco perché si può pensare di approfittare di questo tempo in cui l'INPS prevede che i genitori possano assentarsi dal lavoro. Un congedo che si può strutturare, pensate, anche su base oraria. Ci avete pensato? State seguendo la procedura per fare domanda? Allora, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Il nostro numero verde è a vostra disposizione. Stamattina è collegato con noi per parlarci di questo tema un esperto chiarissimo, il dottor Enzo De Fusco, consulente del lavoro ed esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori. Benvenuto. Allora, grazie. Sgombriamo subito il campo da ogni possibile confusione e distinguiamo il congedo parentale dalla maternità e anche dai riposi per l'allattamento. Sono tre cose ben distinte, dottor De Fusco, è così? E precisamente, cosa intendiamo per congedo parentale? Beh sì, in effetti sono tre cose ben distinte che guardano anche a momenti diversi della maternità e quindi della nascita del bambino. Il congedo di maternità è proprio quel congedo obbligatorio di 5 mesi che spetta proprio a cavallo del parto e quindi è una fase molto delicata per la mamma e quindi la legge prevede che ci sia un obbligo di astensione dall'attività lavorativa. Poi invece abbiamo i permessi per allattamento, questi sì. Sono permessi pensati negli anni 50 per favorire il rapporto madre-bambino nel primo anno di vita del bambino e lì ci sono alcune ore al giorno, poi in relazione se c'è un figlio o un parto gemellare e sono riposi che giornalmente può usufruire la mamma per per accudire il bambino e l'allattamento, e ricordiamo che l'allattamento al seno è esatto. E poi abbiamo il congedo parentale. Il congedo parentale è un congedo facoltativo, quindi è una scelta della mamma o del papà a determinate condizioni di potersi assentare il periodo in linea di massima di 6 mesi, può essere anche superiore, ma servono delle condizioni di reddito per poterne usufruire, e questi 6 mesi io li posso utilizzare in un periodo sufficientemente lungo, perché arriviamo fino a 12 anni di età del bambino, è una delle novità dell'ultima legge, e lo posso usufruire nelle varie modalità, quindi per mesi interi, per periodi inferiori, quindi per giorni, e la novità che lei annunciava può essere usufruito anche per alcune ore. Dottor De Fusco, nella prima parte di Cuore Denari è intervenuta un'ascoltatrice che voleva partecipare a tutti e due i temi e è mamma di un bambino di 8 anni e quindi mi ha subito chiesto se poteva rientrare e usufruire anche lei del congedo parentale. Cosa rispondiamo a Betty che sta aspettando la sua risposta? La risposta è sì. Consideri che prima la legge poneva proprio come limite 8 anni di età. Ora però, proprio per aumentare la platea dei destinatari di questo congedo, la legge ha esteso la possibilità di fruire questi congedi fino al 12° anno di età del bambino. Quindi sicuramente una risposta positiva, poi certamente non potrà godere dell'indennizzo da parte dell'INPS, saranno quindi dei permessi non retribuiti, però ha il diritto di potersi assentare e poter assistere il proprio bambino. La novità, lei l'ha anticipato, è il prolungamento dagli 8 ai 12 anni, e poi che questo congedo può essere, no? Si può approfittare di questo congedo ad ore. La norma indica quante ore al giorno, dottor De Fusco? Sì, allora, qui io mi aspetto che tutti i contratti collettivi possano in qualche modo intervenire sul tema, perché la legge demanda proprio a loro questa possibilità. Quindi prima di tutto verifichiamo gli accordi contrattuali collettivi nazionali e aziendali che si applicano nelle realtà interessate, nelle aziende interessate. In assenza di una regolamentazione, le ore sono pari alla metà del normale orario di lavoro che svolge la lavoratrice o il lavoratore. Ok, quindi alla metà. Alla metà, quindi se c'è una lavoratrice che lavora 8 ore mediamente al giorno, può usufruire del congedo nei limiti delle 4 ore. Ma scusi, ci si può accordare con l'azienda per ridurre poi di fatto il proprio orario di lavoro per un lungo periodo, oppure si può chiedere solo un permesso di volta in volta? Sono possibili entrambe le soluzioni. Quindi il congedo a ore può costituire una modalità per far diventare una sorta di part-time quel rapporto di lavoro. No, immaginiamo una lavoratrice che lavora tutti i giorni 8 ore e prende per un lungo periodo 2 ore di permesso dopo l'allattamento, ad esempio, e quindi continua a fare le sue 6 ore. Ecco, questa è una modalità che, per come io conosco le imprese, è anche gradita, perché è strutturale e poi l'azienda può organizzarsi di conseguenza. Ma il congedo può essere anche un'eccezione oppure un'esigenza estemporanea da risolvere, e quindi può essere anche per poche ore di volta in volta. Andiamo ai nostri ascoltatori, dottor De Fusco. 800 24 00 24, bellissime domande. Iniziamo da Carmen e poi andiamo da Luigi, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Carmen, buongiorno, sì, e benvenuta. Buongiorno. Senta, io mi ritengo una mamma di serie B. Perché? Le spiego. Perché io ho 50 anni, il mio bambino ha 10 anni, e per tutto il periodo della gravidanza e dopo io sono stata penalizzata, perché io sono una lavoratrice autonoma, artigiana. Sì. Maternità io non ne ho vista. È vero? Perché, sì, certo. Perché devo lavorare fino all'ultimo, perché se io mi assento non mangio. Com'è che la risolvo io se dovessi avere tutti quei problemi che avete elencato? Grazie Carmen, giriamo, sicuramente avrà la solidarietà di tante amiche all'ascolto. Ne abbiamo parlato di questo tema in tante puntate con Debre e ci torneremo, ma dottor De Fusco, Carmen presenta una situazione che si commenta da sola, no? Chi può darle torto? È vero, però, perché purtroppo i lavoratori autonomi, ma nel suo caso essendo anche una piccola imprenditrice, no? Se non ho capito male, un'artigiana. Sì, un'artigiana, quindi se non lavoro non mangio, e si sente una mamma di serie B. Sì, questo è vero, ma la legislazione purtroppo è tesa a tutelare quelle figure di lavoratori che sottostanno a un regime di subordinazione anche di natura autonoma, ma che siano in qualche modo sottoposti a delle regole aziendali. Di fatto nel suo caso è lei l'azienda, no? E quindi allora di qui non si scappa, mi sembra, dottor De Fusco. Andiamo da Luigi, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Luigi, benvenuto. Sì, buongiorno, io chiamo da Bassano di Grappa, sono un papà di 47 anni quasi, e niente, lavoro come assistente di volo, e avevo una domanda molto semplice. Nel caso, è il mio caso, la mamma non prenda nessun congedo parentale, quanti ne spettano al papà di diritto in pratica? Dottor De Fusco. Sì, si può arrivare anche fino a 10 mesi in questi casi. Certamente è una delle ipotesi in cui, non fruendo l'altro genitore del periodo normale, che è di 6 mesi, se ricondotto ad una sola persona si arriva anche a un periodo maggiore di 10 mesi. 10 mesi non significa un indennizzo da parte dell'INPS per l'intero periodo, lì in funzione poi del reddito di ciascuna famiglia si andrà a verificare se il periodo oltre i 6 mesi c'è pure un intervento da parte dell'INPS per evitare proprio la perdita del reddito totale. Allora, dottore, ritorniamo a noi con la circolare dell'INPS che abbiamo richiamato prima, e tra l'altro è stata pubblicata in agosto, quindi sono passate delle settimane prima che tutti gli operatori del mondo del lavoro ne cogliessero operativamente tutti gli aspetti. Vengono spiegate proprio le procedure per poterne fare richiesta all'azienda. Allora, vediamo un po' che cosa si deve fare. Da dove comincia un genitore che vuole chiedere il congedo ad ore? Che cosa fa? Allora, intanto dobbiamo dire che con l'ultima riforma del Jobs Act, ma già in precedenza sulla base di circolari dell'INPS, questi servizi devono viaggiare su canali telematici. Sì. Quindi il genitore, la prima cosa che deve fare è deve avere un buon rapporto con l'informatica e con il computer, ma direi che non credo sia un problema. Certo. E deve attivarsi con i servizi telematici sul sito INPS, sul sito web dell'INPS. Quindi deve andare sul www.inps.it, servizi online, deve chiedere un PIN, e questo PIN poi le verrà in il PIN dispositivo, si chiama così? Sì, esattamente. E questo PIN consentirà al genitore di collegarsi, di presentare, di compilare la domanda. C'è proprio una sezione dedicata alle domande di maternità online. Compila la parte relativa al congedo parentale. È una domanda che riguarderà al massimo un mese, quindi se vuole un congedo per più mesi dovrà fare più domande. Questa poi può essere considerata più o meno un'anomalia, ma l'impostazione è questa. Alternativamente può avvalersi del contact center, è il numero verde 803-164 da rete fissa, oppure 06-164-164 per reti mobili. E con questo contact center, uno è gratuito e l'altro invece con tariffazione naturalmente a carico dell'utenza. Tanto siamo a cuore denari, guardiamo anche questo. Certamente sì, e con questa modalità c'è l'operatore che acquisirà tutti i dati per fare la domanda. Diversamente si può rivolgere a dei professionisti, quindi a consulenti del lavoro, a patronati che hanno i collegamenti anche con l'istituto, e potranno poi dare una mano al lavoratore di poter presentare la domanda. Allora, ci fermiamo qua, dottor De Fusco, poi lei ci chiederà che informazioni contiene la domanda di congedo. Sono delle domande difficili, 800 24 00 24. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Vi aspetta tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Tieni il tempo, non fermate fino a domani, tieni il tempo. Stiamo parlando della gestione del tempo nelle nostre famiglie, il tempo più prezioso, quello per curare i nostri figli. È stata resa permanente la fruizione del congedo parentale su base oraria. Stiamo capendo in quali casi si può utilizzare questo strumento e soprattutto come farne richiesta. 800 24 00 24, se avete in mente di cogliere questa opportunità, state seguendo la procedura per fare domanda, avete qualche incertezza, approfittate del nostro numero verde. In linea con noi abbiamo il dottor Enzo De Fusco, consulente del lavoro ed esperto del Sole 24 Ore. Dottor De Fusco, che informazioni contiene questa domanda di congedo? Ma le informazioni sono informazioni direi abbastanza semplici. Intanto, se si sta usufruendo del congedo su una regolamentazione del contratto collettivo o sulla base della regola generale della legge, questo perché i termini di controllo da parte dell'istituto sono diversi. Poi il numero di giornate del congedo parentale di cui si intende fruire, perché poi, come sappiamo, c'è un tetto massimo di giorni consentiti, come abbiamo detto prima. Certo. E in più il periodo all'interno del quale si intende fruire del congedo, ricordando che al massimo il periodo può essere mensile, quindi se si vuole avere un periodo più lungo bisognerà presentare più domande. Andiamo a sentire la domanda di Martina, ci chiama da Trento, ha composto il nostro numero verde 800 24 00 24. Avete ancora tempo per prenotare i vostri interventi. Martina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Allora, io ringrazio anche le possibilità che offre il Jobs Act per quanto riguarda la fruizione della facoltativa, diciamo così, scaduta, cosa che ho fatto per la finestra che era possibile farlo per la mia bimba di 4 anni. E tornando invece al tema di oggi, per quanto riguarda la fruizione oraria, la mia domanda era: come si possono conciliare le 2 ore di allattamento e le 4 ore, diciamo, minime di facoltativa che è possibile richiedere frazionata? Nel senso che se non fosse possibile, per una fruizione ottimale di tutte queste possibilità, io credo, però appunto, correggetemi se sbaglio, che sia possibile usare le 2 ore di allattamento fino al compimento dell'anno del bambino e successivamente usare le 4 ore di congedo. Certo. Ditemi, chiaritemi voi questo dubbio. Grazie mille. Grazie Martina. Dottor De Fusco, allora, allattamento e congedo parentale. Sì, come metterli d'accordo? Il problema del cumulo, no? Certo. Quindi cosa è possibile cumulare nei diversi periodi. Allora, una regola è che il congedo parentale non è possibile cumularlo con le altre assenze previste dallo stesso testo unico della maternità e della paternità. Quindi questa è una regola generale. Quindi vuol dire le ore di allattamento non posso cumularle col congedo parentale. Certamente. Non posso prenderne 2 e 2. Esattamente, questo non è consentito. Al termine dell'anno posso invece in luogo dell'allattamento fruire del congedo parentale, però sì, il congedo parentale può essere cumulato con gli altri permessi non rientranti nella sfera della maternità, quindi se ci sono delle assenze ad esempio a titolo di legge 104, quindi per assistere dei familiari disabili, questo è possibile cumularlo con il congedo parentale. Certo. Ma dottor De Fusco, un'azienda può opporsi a questa richiesta del congedo? E qui dobbiamo fare chiarezza su un punto, perché un lavoratore quando fa la domanda all'INPS pensa che una volta che sia arrivata l'autorizzazione dell'INPS sia tutto fatto. Ecco, il gioco è fatto, no. L'INPS autorizza semplicemente l'indennizzo economico, cioè dice all'azienda e al lavoratore: sì, ti spetta la mia integrazione, il 30% della retribuzione di quel periodo. Sì. Tutto il tema di quando fruirne, in che periodo, è un po' il rapporto tra azienda e lavoratore. Allora, è chiaro che questo è un diritto, e il diritto però non è un diritto assoluto, un diritto oltre il quale l'azienda non può dire proprio nulla. Perché l'azienda ha comunque il diritto a funzionare, quindi bisogna trovare sempre un equilibrio. In teoria l'azienda, per come io interpreto le norme, può dire no in quel preciso momento in cui viene richiesto il congedo. Non può dire un no assoluto. Quindi può dire no in quel giorno, guarda, se lo prendi dopo 2 giorni non ho problemi, perché in quel giorno c'è una scadenza specifica che questa assenza mi potrebbe dare problemi. Certo. C'è un preavviso, il preavviso per il congedo a ore è di 2 giorni, per il congedo a giorni o più lungo sono di 5 giorni, sì. Però è chiaro che un preavviso di 2 giorni può non essere sufficiente in alcuni casi, quindi va sempre trovato un equilibrio nell'interesse di gestire bene poi il rapporto di lavoro. Voglio leggere un SMS, un ascoltatore ci scrive se il congedo parentale vale anche per i figli in adozione. Certo, assolutamente sì, oramai noi abbiamo una legislazione all'avanguardia da questo punto di vista. Il figlio naturale o il figlio adottivo sono messi sullo stesso piano e quindi problemi da questo punto di vista non ci sono. Andiamo a Gianni da Verona. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto Gianni. grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie Gianni, riferirò anche a Debora. Arrivi alla domanda perché diamo modo al dottor De Fusco, certo, di rispondere prima del nostro GR. Grazie. Certo, salve. Sono unico lavoratore in famiglia, due bimbi piccoli, un terzo in arrivo, però con una forte gravidanza a rischio. Posso usufruire del congedo per aiutare a casa oppure mi è negato? Grazie, grazie Gianni. Dottor De Fusco. Sì, la risposta è che lei può certamente usufruire del congedo parentale, lei è un padre lavoratore dipendente e può usufruire anche per un periodo oltre 6 mesi, può arrivare anche al limite dei 10-11 mesi in determinate condizioni. Dottor De Fusco, grazie per la sua chiarezza. Naturalmente le domande dei nostri ascoltatori sono tante e sono arrivati anche messaggi al 349-238-6666. Scriveteci, noi inoltreremo al dottor De Fusco le vostre richieste. Intanto io la ringrazio per essere stato a Cuore Denari. Grazie a lei. Le saluto anche Debora, ai saluti anche da parte di Debora, che naturalmente torna domani. Allora domani si riforma la coppia di Cuore Denari. Come sempre le vostre amiche del mattino vi aspettano alle 10:30, non mancate. Buon pomeriggio da Nicoletta.